Il comitato Fermiamo la guerra, che ha organizzato le grandi manifestazioni del 15 febbraio dell'anno scorso e del 20 marzo di quest'anno, ha invitato già da alcune settimane tutti i cittadini e le cittadine, i gruppi, i comitati pacifisti a alcuni giorni di mobilitazione straordinaria. Molte iniziative sono previste a livello locale dal 2 giugno, in particolare fino al 4, giornata in cui l'attenzione si concentrerà in particolare su Roma. 2 giugno e 4 giugno, due date significative perché da un lato il 2 giugno festa della Repubblica e festa della Repubblica che per noi è la Repubblica fondata sull'articolo 11 della Costituzione e sul ripudio della guerra. Abbiamo spedito come comitato Fermiamo la guerra una lettera al presidente Ciampi chiedendogli che per quest'anno la parata fosse sospesa, pensando che probabilmente non è il tempo di mostrare le armi, ma il tempo invece di piangere e riflettere sulle vittime di guerra. La parata ci sarà e molti gruppi romani stanno organizzando iniziative simboliche di disturbo e di contestazione della parata. Una di queste sarà ad esempio il fatto che i ponti pedonali sul Tevere saranno tutti imbandierati con le bandiere della pace, ci saranno dei sit-in, delle simulazioni di morte da bombardamento e altre iniziative che appunto sono a cura dei diversi comitati, gruppi, reti romane. Poi arriviamo al 4. Quella per noi, quella giornata sarà il momento in cui il Movimento per la Pace darà una risposta di civiltà alla logica di violenza e di barbarie in cui la guerra preventiva e Bush stanno trascinando il mondo. Bush, che è stato invitato dal presidente Berlusconi a celebrare l'anniversario della liberazione di Roma, non ci pare assolutamente degno di onorare la memoria di quelle migliaia di cittadini e cittadine statunitensi che diedero la vita nella lotta al nazifascismo, e questo è uno dei motivi per cui per esempio l'inizio della manifestazione, insieme con il comitato Fermiamo la guerra, abbiamo invitato l'AMPI a stare nella testa della manifestazione. Questa manifestazione partirà da Piazza Esedra alle ore 6 e si concluderà a Porta San Paolo, simbolo della resistenza romana, dove si terrà un meeting popolare con teatro civile, musica, interventi dai luoghi di conflitto che durerà fino alle 22. Il corteo passerà per Piazza Venezia. In questi giorni c'è stato un gran polverone sollevato soprattutto da alcuni media e rinfocolato in qualche maniera anche dalle dichiarazioni del ministro che Pisanu, che spesso, come dire, in un unico calderone mette cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Lui è partito dai pacifisti per arrivare ai terroristi, quando sappiamo benissimo che i due concetti sono assolutamente opposti, e nonostante questo polverone mi pare che le forze dell'ordine, in particolare la Questura di Roma, hanno in maniera assolutamente ragionevole deciso ieri concordemente di concedere al corteo di passare per Piazza Venezia, e cioè di fare il corteo tradizionale che fanno tutti i cortei del mondo quando passano per Roma. Sarà un corteo pacifico, di massa, noi invitiamo tutti quanti a venirci, perché non è assolutamente obbligatorio scivolare in questo gorgo di barbarie in cui la guerra, Bush, i suoi alleati ci stanno trascinando. C'è lo spazio per un movimento pacifico, di massa, per un cambiamento che cambi le cose e che può cambiare le cose sin da subito.